será que mi dice adiós? Piangevo io, ma non lei. E chi lo sa se a quell'amore, a quell'addio, non pensa mai, non rimane che un addio a un amore che non c'è. Comandare ad un cuore non si può. Passa il tempo e sono qui a pensare a ciò che fu, a carezze che finirono così, all'addio che sussurrò, all'addio che separò la realtà dai sogni miei e dall'amore. Dentro me qualcosa che mi fa tremare di paura, se penso che l'amavo io, volevo lei che non mi amava. Non rimane che un addio a un amore che non c'è. Comandare ad un cuore non si può. Passa il tempo e sono qui a pensare a ciò che fu, a carezze che finirono così, all'addio che sussurro, all'addio che separo la realtà dai sogni miei e dall'amore. Passa il tempo e sono qui a pensare a ciò che fu, a carezze che finirono così, all'addio che sussurro, all'addio che separo la realtà dai sogni miei e dal